sono le 13. GR24, il sole 24 ore. L'Italia stanzia 5 milioni per l'emergenza umanitaria al confine con la Libia. In mattinata nuovi bombardamenti su pozzi petroliferi. Via libera al decreto che recepisce la direttiva europea in materia di energie rinnovabili. Le nuove norme sugli incentivi arriveranno a giugno. Maltempo, ritrovato il corpo della ragazza dispersa nelle Marche, un morto in un sottopasso allagato nel Teramano. Napoli verso lo scioglimento della giunta comunale dopo le dimissioni di 31 consiglieri. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano, l'avete sentito nei titoli, le decisioni del governo stamattina in Consiglio dei Ministri, decisioni che vanno dalle energie rinnovabili all'assistenza umanitaria in Nord Africa. Ci aggiorna in diretta Andrea Viali. Sì, dunque, innanzitutto, come previsto, Piera, il Consiglio dei Ministri, come dicevi, ha approvato la missione umanitaria italiana nel Maghreb. Appena possibile verranno inviati aiuti alle popolazioni libiche della Cirenaica, ma prima l'Italia allestirà un campo di accoglienza in Tunisia, nella zona di Ras Jeder, dove sono ammassati più di 70.000 lavoratori stranieri, soprattutto egiziani, in fuga dalla Libia. La missione partirà entro 24-48 ore, ha detto il ministro degli esteri Frattini, che ha anche spiegato quali sono gli interventi previsti. Sentiamolo. Fornire pronto intervento di assistenza alimentare, sanitaria, personale, vi sono casi di gente che non ha più vestiti, e accompagnarli con il supporto terrestre delle forze tunisine a Gerba e a Zarzis, da dove si imbarcherebbero con mezzi navali e con mezzi aerei verso Alessandria d'Egitto e verso il Cairo. Il governo ha predisposto anche un piano B per gestire un eventuale esodo di massa, ha spiegato invece il ministro degli interni Maroni, che ha fatto sapere anche che stamattina è stato approvato anche il decreto legislativo sul federalismo municipale, su cui ieri il governo ha incassato la fiducia alla Camera, e ha aggiunto anche sempre Maroni che è stata autorizzata poi anche la proroga di 4 mesi dei tempi della delega sul federalismo. Altro provvedimento varato stamattina nella riunione di Palazzo Chigi è infine il decreto legislativo sulle energie rinnovabili. Dopo le proteste di varie associazioni nei giorni scorsi, il governo ha tolto dal testo la norma che fissava a 8.000 megawatt il limite per gli incentivi al fotovoltaico. Soglie e incentivi verranno comunque rimodulati con un successivo provvedimento entro aprile ed entreranno in vigore da giugno. Per ora è tutto. Grazie. Grazie ad Andrea Viali. E non ci sarà l'Election Day. Si voterà infatti per le amministrative il 15 e 16 maggio. Per il referendum invece sulla privatizzazione dell'acqua e il ritorno all'energia nucleare, il Viminale ha proposto la data del 12 giugno. Sentiamo il ministro dell'Interno Maroni dopo il Consiglio dei Ministri, che ha spiegato così la decisione. Il referendum è un'altra cosa, si può svolgere entro il 15 di giugno, l'ultima data utile è il 12 di giugno, è una decisione che spetta al Consiglio dei Ministri. Io personalmente sono favorevole a farlo svolgere il 12 di giugno, domenica 12 di giugno, seguendo una tradizione che ha visto sempre distinte le due votazioni, e quindi anche perché nella seconda, come sapete, è richiesto il quorum. È già stato fatto nel 2009 con le europee questo voto separato, e io proporrò al Consiglio dei Ministri di seguire questa stessa indicazione, e cioè di fissare il referendum per domenica 12 giugno, ma questa è una deliberazione che il Consiglio dei Ministri dovrà fare successivamente. E protestano le opposizioni per Dario Franceschini, capogruppo alla Camera del PD. Così si buttano dalla finestra 300 milioni di euro in un momento di grave crisi per le imprese e le famiglie italiane. Si fa questo per impedire di far raggiungere il quorum al referendum sul legittimo impedimento. Il PD, aggiunge Franceschini, ha già presentato una mozione che impegna il governo ad accorpare amministrative e referendum. Sulla stessa linea Italia dei Valori, votare per il referendum il 12 giugno e non il 29 maggio insieme alle amministrative è uno spreco enorme di soldi pubblici, un furto di 350 milioni di euro agli italiani, dice in una nota il presidente del gruppo IDV alla Camera, Massimo Donadi. Sul fronte internazionale scatta da oggi il blocco dei beni dei 6 componenti della famiglia Gheddafi e di 20 stretti collaboratori del regime libico stabilito dall'Unione Europea. E stamattina un aereo da guerra ha bombardato nuovamente il terminal petrolifero di Brega, la città libica orientale dove ieri gli insorti hanno respinto le truppe fedeli a Gheddafi. Il racconto dell'inviato del Sole 24 Ore a Brega, Roberto Bongiorni. La controffensiva di Gheddafi serrata ieri mattina contro la città portuale di Brega, pare anche contro Ras Lanuf, che tuttavia non ha ceduto alle forze dell'opposizione, è stata vinta dai giovani rivoluzionari, i quali erano dotati di un esercito tutt'altro che efficiente. La differenza tra gli armamenti a disposizione di Gheddafi e quelli a disposizione dei ribelli è notevole, ma dalla loro parte i giovani rivoluzionari hanno l'entusiasmo, il coraggio. Ieri sono andati al fronte addirittura qualcuno armato di coltelli, senza munizioni, ma in massa. Il grande problema è una situazione di stallo, ci sono offensive e controffensive, ma sostanzialmente i due belligeranti tengono le stesse posizioni. Ed è notizia di questi minuti che 3 navi da guerra americane che hanno attraversato ieri il canale di Suez sono ora a 50 miglia al largo della costa libica, lo riferiscono fonti marittime egiziane. Sono in corso a Roma in questi minuti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli funerali del capitano Massimo Ranzani, morto lunedì in Afghanistan. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano si è soffermato a parlare brevemente con i suoi parenti. Sentiamo un passo dell'omelia di Monsignor Vincenzo Pelvi. Agli amici Massimo confidava che per costruire la pace bisogna guardare gli occhi dei bambini, leggervi dentro il sogno di cose belle, perché affermava non ci sono bambini italiani, afghani o di altri paesi, ci sono i bambini, c'è il futuro, proprio come non ci sono, aggiungeva, tante paci, ma c'è la pace. Massimo è stato instancabile seminatore di speranza dinanzi a chi noi chiamiamo straniero, a chi è prigioniero, a chi è nudo di dignità. Sperare per Massimo significava credere nell'impossibile. La pagina economica, ripartono le richieste di cassa integrazione a febbraio. Le aziende italiane, in rileva l'INPS, hanno chiesto l'autorizzazione per 70,6 milioni di ore di cassa integrazione, con un aumento del 17% rispetto a gennaio, mese nel quale si era registrata una forte frenata. Secondo l'INPS il rimbalzo era comunque atteso e rispetto a febbraio 2010 si è registrato un calo delle ore autorizzate del 27%. Ed ora il nostro consueto punto borsa, sentiamo come stanno andando i mercati. Deborah Rosciani. Buongiorno, stanno andando bene. Oggi le borse del vecchio continente hanno dei rialzi che si avvicinano al punto percentuale, anzi al punto e mezzo percentuale a Parigi e Francoforte, Londra più 1,26, Milano più 0,95%. La giornata era partita bene, poi c'era stato un rallentamento e poi un nuovo rafforzamento per gli indici europei. L'euro sul dollaro è 1,3864. Oggi i riflettori sono puntati sulla riunione della Banca Centrale Europea, iniziata la stamattina a Francoforte. I fari dell'organismo, appunto, di Francoforte sono puntati sull'inflazione e sull'andamento del prezzo del petrolio, tra i 116 e i 117 dollari al barile, appunto, a Londra, oltre i 102 a New York. Questo è il quadro che potrebbe indurre Trichet, il numero uno della Banca Centrale Europea, oggi a dare delle tempistiche un po' più chiare sul momento in cui intende ricominciare a restringere la politica monetaria nell'eurozona. Di fatto oggi il mercato è certo che i tassi verranno mantenuti all'1%, lo sapremo alle 13:45. Una nota a margine: manca alla riunione di oggi della BCE il presidente della Bundesbank, Axel Weber. Non ci sono stati ulteriori dettagli, ma come sapete lui era candidato alla guida della Banca Centrale Europea, però c'è stato un niet da parte del governo tedesco appunto a questa candidatura, forse si è offeso e quindi non è andato oggi neanche a Francoforte. Deborah, grazie mille. E siamo al maltempo sul centro Italia, che concede una piccola tregua, ma restano i disagi, come sentiremo fra poco nel nostro collegamento con strade in diretta e si fa la conta delle vittime. Ci racconta tutto in diretta qui con me Laura Bettini. Buongiorno, sì, c'è un'altra vittima purtroppo del maltempo, è la quarta nel centro Italia, in provincia di Teramo. Il cadavere di un automobilista è stato trovato in uno dei sottopassi allagati dal nubifragio che ieri ha interessato anche l'Abruzzo. Ma le Marche sono la regione più colpita, 3 le vittime, 143 gli sfollati, almeno 10.000 le utenze Enel interrotte per problemi seri e strutturali. Stamattina è stato trovato il corpo della ragazza travolta ieri dalla piena di un fiume a Casette d'Ete, la stessa piena che ha ucciso il patrigno della giovane. Ieri poi era stato rinvenuto anche il corpo di un'anziana finita in un fosso nell'Ascolano. Alessandro Milan ha intervistato l'assessore regionale con delega alla protezione civile, Serenella Moroder. La cosa più grande e più preoccupante è che non è stata colpita una zona della regione, ma la regione tutta. Dunque l'elenco delle cose di cui avremo bisogno sarà veramente lungo. Lei diceva delle 3 persone purtroppo che questo maltempo ha portato via. C'è la necessità, ma questa popolazione lo sa ed è ben coesa, di stare tutti allerta. Abbiamo in questo momento la situazione sotto controllo. Se dovessimo avere bisogno, sicuramente chiederemo aiuto. Alcuni vigili del fuoco sono venuti da altre regioni. Dobbiamo fare purtroppo la conta dei danni, non solo per la calamità naturale chiederemo risorse, ma anche per l'emergenza, lo stato di emergenza. Lo stato d'allerta non è terminato, rimane certo critica la situazione su tutta la regione. E come andrà nelle prossime ore l'abbiamo chiesto al centro Epson Meteo. Giornata di oggi che vede ancora un addensarsi di nuvole sulle Marche, anche se con fenomeni piuttosto deboli, quota neve in montagna oltre gli 800-1000 metri. Fenomeni deboli che in questa maniera andranno avanti per le prossime ore fino al primo mattino di domani, però non portando particolari quantitativi di acqua al suolo. Dopodiché avremo una pausa piuttosto consistente, senza il ritorno di ulteriori fenomeni per almeno 24 ore. E migliora la situazione anche in Basilicata, dove i danni sono stati principalmente all'agricoltura, fragole, agrumeti, frutteti sono stati sommersi dall'acqua per milioni di euro di danni. E va meglio anche sulla pianura padana, anche se continua a nevicare o nevischiare dal Piemonte fino al Veneto, compresa anche Venezia. La situazione comunque è sotto controllo, anche la Bora Trieste sta scendendo di intensità e negli ospedali però lascia un centinaio di feriti e per le strade danni anche qui per migliaia di euro. Infine a Ravenna è stato sottoposto a sequestro l'impianto di aspirazione del sottopassaggio in cui ieri è annegata una donna. È tutto. Grazie a Laura Bettini. E ora siamo al capitolo giustizia. Si terrà giovedì prossimo, il 10 marzo, il Consiglio dei Ministri straordinario per varare la riforma costituzionale della giustizia. La data è stata decisa stamane nel corso della riunione dei ministri a Palazzo Chigi, di cui abbiamo parlato anche in apertura. Intanto arrivano nuovi dettagli sull'inchiesta Ruby e ce li racconta Raffaella Calandra. Sì, quando Papi, cioè Silvio Berlusconi, secondo il nomignolo con cui si faceva chiamare, cominciò a non farsi più sentire dalle sue ospiti, tra le ragazze dell'Olgettina la preoccupazione cominciò a montare sempre più. Io mi sto guardando intorno, quello tra un po' ci manda tutte a quel paese. Anche questo c'è nelle ultime intercettazioni allegate allo straccio dell'inchiesta che ha mandato a giudizio il Premier per concussione e prostituzione minorile. Tu bene o male hai il tuo lavoro, non te lo leva nessuno, a me se non mi mette che faccio? Si interroga Barbara Guerra con Nicole Minetti, che però poi, una volta scoppiato il caso Ruby, le confida la sua ansia di essere cacciata dal Consiglio regionale. A catena arriva fino al Residence di Milano 2 l'agitazione per un quadro politico che non è più così stabile per lo stesso Premier, visto che anche la Lega e gli altri si stanno mettendo piano piano contro di lui, secondo l'opinione di Emilio Fede, che stando a quanto riporta ancora la Guerra, avrebbe indicato in Tremonti il successore di Berlusconi. Si tratta della stessa showgirl il cui padre si era offerto di sistemare una microspia negli uffici di Futuro e Libertà a Milano, ieri sottoposti per questo a bonifica. In queste conversazioni manifestazioni più recenti, come da ultimi giorni di Pompei, le ragazze si preoccupano di accaparrarsi una casa, come Anna, che cita il precedente di Ruby, o la parte in un film per la guerra che non vuole restare per altri 5 anni in questa comune, si sfoga a guadagnare 600 euro. Per questo, come era stato già per Ruby, ancora minorenne, cercano agganci soprattutto in Mediaset. E nuovi elementi ancora sull'indagine dovrebbero emergere lunedì, quando saranno chiuse anche l'inchiesta della troncone principale a carico della consigliera Nicole Minetti, del direttore del TG4 Emilio Fede e dell'agente dei VIP Lele Mora. Ed è tutto. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della situazione in Libia, notizia di poco fa che la Corte Penale Internazionale ha deciso di aprire un'inchiesta sui crimini contro l'umanità compiuti appunto in Libia dal 15 gennaio. In mattinata intanto nuovi bombardamenti sui pozzi petroliferi e l'Italia stanzia 5 milioni per l'emergenza umanitaria. Via libera al decreto che recepisce la direttiva europea in materia di energie rinnovabili. Le nuove norme sugli incentivi arriveranno a giugno, il ministro Prestigiacomo dice. Da oggi più certezze e controlli. Maltempo, ritrovato il corpo della ragazza dispersa nelle Marche, un morto in un sottopasso allagato nel Teramano. Ripartiamo da Napoli, ci trasferiamo a Napoli che si avvia verso lo scioglimento della giunta comunale. In questi minuti la conferenza stampa del sindaco Rosarusso Iervolino, ci colleghiamo in diretta con Paolo Picone. Sì, buongiorno, sono 31 i consiglieri comunali di opposizione che hanno dato le dimissioni e quindi hanno costretto al commissariamento, allo scioglimento il consiglio comunale di Napoli. La Iervolino dunque non ha più la sua maggioranza, il consiglio comunale viene così sciolto. Partono così le operazioni di commissariamento del comune di Napoli, ora si attende che vengano depositate le 31 dimissioni nelle mani del segretario generale del comune, che a sua volta sarà tenuto a informare il prefetto di Napoli De Martino, da cui partirà a stretto giro dopo aver segnalato al Ministero dell'Interno l'iter per il commissariamento dell'amministrazione motivata dalle dimissioni di oltre metà dei componenti dell'assemblea cittadina. Nella conferenza stampa che è appena terminata il sindaco di Napoli ha detto: io non mi sarei mai dimessa per rispetto con gli elettori, ma siccome obbedisco alle leggi serenamente accetto questo verdetto e questo scioglimento. Da Napoli per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie a Paolo Picone. Due persone sono state arrestate la scorsa notte dai carabinieri per tentata estorsione alla famiglia di Mike Bongiorno. I due italiani si sarebbero detti pronti a restituire la bara in cambio di alcune centinaia di migliaia di euro. In realtà avrebbero solo cercato di approfittare della famiglia del presentatore, visto che della bara non c'è alcuna traccia. Cacciato dalla sua banca l'economista bengalese premio Nobel per la pace Muhammad Yunus. Tutti lo conoscono come il banchiere dei poveri, l'uomo che ha inventato il microcredito per dare una possibilità anche a chi non ha le carte per ottenere prestiti. Per questo Muhammad Yunus ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2006. Per il primo ministro del Bangladesh invece Yunus è un opportunista che succhia sangue ai poveri. A Dhaka in Bangladesh si dice che ci sono motivazioni politiche dietro l'attacco del governo alla Grameen Bank, la banca dei piccoli prestiti. Ieri la banca centrale ha ordinato l'allontanamento di Yunus, direttore esecutivo, perché ormai da 10 anni ha superato i limiti di età e perché al momento della nomina nel 2000 non ebbe l'approvazione dell'istituto centrale. Accuse che Yunus respinge, spostando il confronto in tribunale dove oggi ha presentato ricorso. Dalla sua parte ci sono il governo norvegese, che è uno dei principali donatori di Grameen Bank, e l'ambasciata degli Stati Uniti, che si è detta profondamente turbata dall'attacco contro un uomo, come ha detto l'ambasciatore Moretti, che ha portato onore al suo paese. La vicenda ha comunque aperto il dibattito sull'efficacia del microcredito. I sostenitori di Yunus indicano il numero dei poveri che si sono lasciati la miseria alle spalle. I critici fanno notare che le storie di successo sono troppo poche e per molti il prestito si trasforma in una trappola. Comunque sia, c'è chi avverte: togliere improvvisamente fiducia al sistema del microcredito potrebbe provocarne il collasso, con conseguenze ben più ampie del destino di Muhammad Yunus. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. Ora sentiamo cosa ci dice l'indagine Confcommercio Censis sui consumi e il clima di fiducia. I consumi restano al palo, ma migliora il clima di fiducia delle famiglie italiane. Lo dice l'osservatorio Censis Confcommercio. A gennaio i consumi delle famiglie sono stati ancora molto deboli e si sono attestati, al netto dell'inflazione, a meno 0,1% rispetto a dicembre e sono calati dell'1,9% rispetto a gennaio 2010. Si sono tagliate le spese su auto, alimentari, bevande, tabacchi, beni e servizi ricreativi. In aumento invece le spese per abbigliamento e calzature, grazie ai prezzi stracciati dei saldi, e quelle per beni e servizi per la cura della persona. Crescono inoltre i risparmiatori e torna il mito del mattone. C'è, insomma, un sostanziale ristagno dei consumi e sul futuro i pessimisti superano ancora gli ottimisti. Teresa Trillò, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Conduttori a settimane alterne per i talk show Rai, siete favorevoli? Ve lo abbiamo chiesto oggi nel nostro sondaggio. Il 29% di voi ha risposto di sì, il 71% ha risposto di no. Twitter non sta trattando la vendita di una quota del 10% a JP Morgan, lo ha affermato il cofondatore del social network BStone a Seoul. Stone ha detto che la società vuole rimanere indipendente e tutto ciò che è stato scritto negli ultimi giorni è falso. Nei giorni scorsi, infatti, il Financial Times aveva riferito che JP Morgan, attraverso il suo fondo Digital Growth Fund, puntava a rilevare il 10% di Twitter per un controvalore di 450 milioni di dollari. La tennista Serena Williams è fuori pericolo dopo lo spavento di lunedì, in diretta Dario Ricci. Sì, buongiorno. Beh, davvero una brutta avventura per Serena Williams, la ex numero uno del tennis mondiale, che è stata ricoverata per un'embolia polmonare una settimana fa e poi operata d'urgenza ieri al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. A quanto riferito dalla sua agente Nicole Chabot al magazine People, la 29enne statunitense si era sottoposta a una visita a New York per l'infortunio al piede che di fatto la tiene fuori dal circuito da quella che è stata la sua ultima apparizione, la finale dei Wimbledon dominata il 3 luglio 2010, e poi tornata a Los Angeles è stata colpita dall'embolia. Solo due giorni fa Serena Williams aveva anche partecipato ad un party benefico sempre a Los Angeles organizzato da Elton John, poi però la notizia del malore. Un brutto momento di fatto quindi per Serena Williams, che lo ricordiamo è assente dai campi di gioco proprio dalla finale dell'ultimo Wimbledon vinta. E quali possono essere state le cause di questo improvviso malore? Beh, secondo gli esperti, nelle giovani donne questo tipo di embolie si verificano come effetto collaterale dell'uso della pillola anticoncezionale, o per il fumo, o per una trombosi, oppure per l'assunzione di EPO, che aumenta il grado di densità di globuli rossi, o anche in seguito a una liposuzione. Ipotesi non remota nel caso della Williams, perché nel settembre scorso era apparsa in tribuna agli US Open con evidenti ritocchi al naso, alle guance e anche ai glutei, anche se poi lei non ha mai ammesso questi interventi estetici. Insomma, l'ennesimo mistero nella carriera di una campionessa sicuramente invincibile in campo, ma che presenta diverse zone d'ombra fuori dal terreno di gioco. Per il momento è tutto. Grazie a Dario Ricci. Gli impressionisti sbarcano a Milano. Fino al 19 giugno sono infatti esposte a Palazzo Reale una settantina di opere dei più grandi maestri della scuola francese in arrivo dagli Stati Uniti. Mostra capolavori di Renoir, Monet, Degas e Gauguin, solo per citarne alcuni. Stefano Zuffi, membro del comitato scientifico, al microfono di Adriana Fracchia. La mostra nasce da una circostanza in qualche modo occasionale, e cioè il fatto che questa bellissima fondazione Clark, ancora in piena espansione, sta ampliando la propria sede, per cui per alcuni anni alcuni fra i massimi capolavori di questa collezione sono disponibili per un lungo tour internazionale che è iniziato proprio da Milano, ed è un motivo anche di soddisfazione che Milano sia stata scelta come prima sede per questo tour che durerà circa 3 anni in tutto. Il comitato scientifico della Fondazione Clark ha selezionato 73 opere a Palazzo Reale per presentare al pubblico italiano, milanese, lombardo, insomma, una esposizione che aiuti a entrare nel vivo di questa collezione e a capire meglio il significato e la bellezza di queste opere. Il percorso della mostra è un percorso tematico in 10 sezioni. Esatto, questa è stata proprio la scelta che abbiamo fatto qui a Milano, proprio perché in questo modo si entra di sezione in sezione all'interno di alcuni dei temi forti della stagione dell'impressionismo, appunto l'impression, la luce, la natura, città e campagna, il mare, i viaggi d'artista, la società, il volto, il corpo, i piaceri. Ecco, queste sono le sezioni in cui la mostra si articola, e a metà del percorso però c'è una sorpresa che non so se rivelare ai nostri ascoltatori o se lasciarla, come dire, alla novità, ecco, che si troveranno di fronte. Chissà quale sarà questa novità. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Pietro Lacorte. Vi lascio alle borse, poi Italia in controluce. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.